Salve a tutte e a tutti, questo è TK. Mesi fa ho intervistato Frank Morales. Frank Morales è un attivista statunitense dal Bronx, di New York, che è attivo fin dagli anni 70, fine anni 60, coinvolto moltissimo nella lotta alla casa. E coinvolto anche nelle occupazioni, cioè gli squat. E con lui abbiamo ragionato su i nessi tra l'occupazione de degli spazi urbani, principalmente a New York, e come si relaziona il movimento per la casa, specificamente a New York, con il resto dei movimenti degli anni 60 e 70, come si differenziano i movimenti di allora con quelli di adesso e come il tutto viene relazionato anche all'aumento del tasso di carcerazione di cui l'impennata si è vista durante gli anni 80 principalmente. Okay, I think first of all, one of the major differences between that period, we're talking late 60s and 70s, Bene, si particularly within the potrebbe housing cominciare struggle, con is una panoramica the physical degli ultimi anni context 60, primi anni 70, of the whole in housing cui question. si Early 70s, riscontra una devastazione di interi quartieri nelle più grandi città come New York, dell'infrastruttura, dei palazzi. Si crea una situazione di crescente povertà. Che colpisce principalmente le comunità di colore, e dove beh, interi quartieri sono in pratica abbandonati, i palazzi sono saccheggiati, in pratica c'è un disinvestimento totale che porta alla devastazione di tantissimi palazzi che altrimenti sarebbero stati vivibili. Invece, con l'aumento del tasso di povertà in centri abitati come Harlem oppure Lower East Side, sarebbero due quartieri abbastanza famosi di Manhattan, che adesso sono sottoposti a una forte pressione di speculazione come al Pigneto, per esempio, o San Lorenzo. All'epoca, negli anni 70, in pratica si trattava di palazzi che erano fatiscenti, dove mancavano anche tubature perché erano state magari tolte per essere rivendute al mercato, oppure c'erano in pratica appartamenti che erano stati svuotati di qualsiasi infrastruttura necessaria per adempiere anche al più minimo del fabbisogno. E in questo contesto di crescente povertà e di crescente devastazione di interi quartieri, si va via via sviluppandosi una situazione in cui tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80 esistono 100.000 persone senza tetto e in pratica 100.000 alloggi abbandonati. Così, durante questo periodo, magari non in maniera esplicitamente politicizzata, spontaneamente cresce un certo tipo di movimento, se si può chiamare così, che poi lo diverrà, in cui la gente si si rende conto che l'unico modo di sopravvivere è di occupare questi spazi che sono stati abbandonati e di restaurare i palazzi stessi. Lo fanno inizialmente in maniera illegale, cioè entrano in questi palazzi abbandonati che sono stati murati oppure in qualche modo chiusi a lucchetto, forzano il lucchetto, entrano e cominciano a restaurare tutto, a rimettere tutto a posto, a raccogliere materiale per ripristinare anche, per esempio, la corrente elettrica, le tubature, impianti idraulici, cose così. Però tutto avviene illegalmente dapprima ed è sì, un movimento abbastanza spontaneo che risponde al bisogno di avere un posto dove vivere. E poi in seguito in grandi città, ma specialmente a New York, viene fuori una politica dal municipio stesso, dal comune, che tenta di legalizzare questo processo che è in atto dagli anni 70. Per coloro che non si ricordano, nel metà degli anni 70, addirittura New York deve dichiarare la bancarotta, cioè siamo in una situazione abbastanza disastrata, disastrosa, in cui, dove le vittime principali sono le persone più povere, specialmente quelle di colore. Bene, in questo contesto allora si sviluppa questo movimento che fa pressione sempre di più in maniera informale, poi diventa formalizzata nella nuova amministrazione del comune di New York, dove si introduce poi una nuova legge che legalizza l'occupazione dei palazzi abbandonati, però tramite un bando, come in pratica adesso questi giorni accade a Roma per quanto riguarda i terreni abbandonati che vengono poi messi in bando magari per introdurre spazi verdi, eccetera. Beh, una cosa simile avveniva a New York durante i primi anni 80, metà degli anni 80. Però fu molto breve questa politica, tant'è che nel 1985, che fu l'ultimo bando per l'occupazione legale di palazzi, dovettero accogliere, non so, qualcosa come 12.000 richieste di occupazione di spazi, 12.000 palazzi richiesti da 12.000 gruppi diversi e furono messe a disposizione soltanto due palazzi per 12.000 richieste, per poi chiudere definitivamente questo capitolo di apertura verso la necessità di alloggio, necessità di vivere, sopravvivere in una città come New York, dove durante per esempio l'inverno si rischia di morire di ipotermia e durante l'estate, pure diciamo che non è molto comodo dormire per le strade. Comunque, nell'85 in pratica si torna di nuovo all'illegalità. Allora, è importante mettere tutto questo in un contesto anche di economia politica, come si potrebbe anche dire, nel senso che abbiamo una politica dapprima di criminalizzazione del movimento per la casa in generale, di questi gruppi spontanei, che avviene però in una realtà di lotte che a partire specialmente dalla fine degli anni 60 fino alla metà degli anni 70 è una serie in pratica di lotte che sono quasi come guerre che si svolgono all'interno delle grandi metropoli statunitensi. Ci si riferisce qui ai movimenti per la liberazione dei neri, quindi Black Power. Non dimentichiamoci che Malcolm X, per esempio, aveva una grandissima influenza a West Harlem in particolare, per esempio. C'erano gli Young Lords, che era un'organizzazione che lottava per la liberazione del Porto Rico, ma anche per la liberazione dei portoricani che vivono negli Stati Uniti, e cioè liberazione dall'oppressione quotidiana che come la comunità nera ne soffrivano. E in questo contesto di lotte, di privazione delle cose, cioè, più elementari, come la casa, è in questo contesto che avvengono queste occupazioni. Ma attenzione, cioè, molte di queste occupazioni erano sì spontanee, ma molte altre invece erano organizzate tramite, per esempio, le Pantere Nere, oppure i Young Lords, oppure altre organizzazioni che erano organizzazioni politiche dal basso, che tentavano di agevolare come potevano le vite devastate, sempre più devastate nelle proprie comunità. Uno dei modi in cui venivano devastate queste comunità, come a New York, specialmente a Harlem, nella Lower East Side, anche nel Bronx, oppure Watts, Los Angeles o parte di Detroit di quel periodo, fine anni 60, primi anni 70, è tramite il disinvestimento non soltanto dal settore privato, ma anche dai comuni stessi. Per esempio, dal lato privato, le banche cominciarono a non elargire più credito ai piccoli proprietari dei palazzi, che magari storicamente erano nelle mani di questi piccoli proprietari anche dagli anni 20, 30, 40, cioè si tramandavano da generazione a generazione queste proprietà di piccoli palazzi a 6 piani, cioè piccoli nel contesto newyorkese ovviamente, 6 piani è proprio minuto come palazzo da quelle parti. E quindi negando l'accesso al credito si creava una situazione di abbandono, perché ovviamente questi piccoli proprietari andavano all'astrico oppure dovevano migrare loro stessi o loro stesse. Oppure si negava l'accesso a credito anche ai negozi che erano principalmente gestiti da proprietari di colore. Si creò in pratica il presupposto per il disastro economico, in pratica è quasi come se fosse stato pianificato, perché per esempio durante lo stesso periodo, fine anni 70 per esempio, ci sono studi che dimostrano chiaramente la negazione da un lato a intere comunità di accesso al credito finanziario. E da un altro canto si vedono in altre comunità di bianchi, abbienti che vedono un sovraccarico di offerta dalle stesse banche. Quindi chiaramente c'è un componente decisamente razzista che subentra in queste decisioni di investimento finanziario. Quindi questo è uno dei modi che furono messi in atto per creare i presupposti per lo sfollamento di interi quartieri. Per esempio, a West Harlem perse qualcosa come un terzo dei suoi abitanti in questo modo. Poi ci furono altri componenti pure dal lato del comune stesso, che cominciò a investire sempre di meno nelle infrastrutture e anche nei servizi, tagliando addirittura certi servizi di sanità, oppure diminuendoli, magari il servizio per dei vigili del fuoco veniva per coincidenza a meno quando più ce n'era bisogno, perché in questi contesti di disinvestimento pianificato, mettiamola così, c'erano incendi dolosi, magari un tossicodipendente veniva pagato per buttarci dentro un appartamento una bottiglia Molotov per far incendiare l'intero palazzo, e poi così si dichiarava chiusa la questione, e quindi chiunque ci viveva lì doveva per forza trovarsi un'altra sistemazione. E c'erano moltissimi modi in cui si convinceva, tra virgolette, cioè si forzava la gente, gli abitanti locali, in questi quartieri di predominanza di afroamericani oppure latino, gli si obbligava a cambiare luogo, a perdere la casa. È così che in pratica si faceva una politica di sfratto, in una combinazione privata e pubblica, mettiamola così, che agivano in pratica insieme. E guarda caso, tutto questo avviene proprio durante l'apice dei movimenti di liberazione nazionale all'interno degli Stati Uniti. E secondo Frank, non è una coincidenza, perché si tratta di una politica di repressione che mira a toccare proprio le fondamenta delle comunità, cioè negare addirittura la possibilità di avere un tetto, cioè di riuscire anche ad avere un posto dove dormire per migliaia e migliaia di persone, sia afroamericane che latina o latinos, sia anche nativi americani che vivono nelle grandi città durante quel periodo, e tuttora lo sono nelle grandi città. Molti non sanno che ci sono moltissimi nativi americani che vivono a New York, per esempio. Anche loro sono stati toccati direttamente da queste politiche di sfratto. Poi, durante la metà degli anni Ottanta, quando viene ricriminalizzato l'atto di occupazione di spazi abbandonati, è proprio durante il periodo in cui molti palazzinari vedono un'opportunità di grandi guadagni facili in queste zone che sono state devastate. Quindi, a partire dall'85 in poi, a New York almeno, ma si intravede qualcosa di simile anche in altre metropoli americane, si ha in pratica una grande ondata di speculazioni che interessa questi quartieri che sono stati disastrati, quasi fossero disastrati apposta, proprio per preparare in pratica preparare il terreno per queste speculazioni che avverranno poi a partire dalla metà degli anni Ottanta. E proprio in questo contesto, allora, molto diverso dalla fine degli anni 60, primi anni 70, in cui sì, è criminalizzato l'atto di occupazione degli spazi, però allo stesso tempo ci sono amministrazioni che legalizzano, cominciano a legalizzare oppure chiudono un occhio sulle occupazioni degli spazi abbandonati. Però a partire da metà degli anni 80 la politica diventa diversa, il contesto diventa diverso. non solo non è legale più occupare uno spazio, non ci sono più bandi e quindi si obbliga la gente a commettere crimini che prima non erano. Cioè si attuano come al solito leggi criminogene che in pratica colpiscono intere comunità, in questo caso comunità che danno fastidio politicamente alla classe dirigente statunitense. Ma si introducono anche dipartimenti di polizia sempre più armati e sempre più propensi alla violenza. Infatti, casi di brutalità anche pure un'impennata dagli anni 80 in poi. Non che non fossero meno brutali le polizie delle varie metropoli americane prima degli anni 80, però si accentua proprio l'accanimento durante questo periodo. Ed è proprio in questo periodo, cioè dalla metà degli anni 80, che per esempio a New York, nel Lower East Side, l'occupazione che da un lato è spontanea, sì, perché c'è il bisogno proprio di alloggio, perché non c'è ed è illegale accedere in altri modi a sistemarsi una casa, ad avere anche accesso a un tetto. Ma però c'è anche una lotta politica, cioè una consapevolezza degli aspetti politici dell'occupazione degli spazi abbandonati nel contesto urbano. Però a differenza degli anni 70 e 60, questa consapevolezza politica non è più la stessa, cioè quella collegata alla lotta per la liberazione nazionale, perché tutti quei gruppi, come i Black Panther, i Young Lords, American Indian Movement, sono stati spazzati via in un modo o nell'altro tramite assassini, tramite incastrare i vari esponenti di queste organizzazioni rivoluzionarie. E poi c'è anche l'introduzione del mercato cioè delle droghe, cioè che è connesso direttamente nell'era reaganiana con la guerra all'Iran dal 79 in poi. E cioè non è un caso che tutto un tratto in queste comunità sia una sovrabbondanza di droghe pesanti, tipo eroina, poi sempre di più cocaina, eccetera. E questo pure comporta un altro disastro per molte di queste comunità povere. Allo stesso tempo, durante questo periodo, veramente a partire dai primi degli anni 80, quindi non completamente, ma in sovrapposizione a tutti questi fenomeni, vengono introdotti questi rifugi gestiti molte volte in privato, ma anche dai comuni stessi, questi rifugi per i senzatetto. In pratica, quello che sostiene Frank è che durante questo periodo di sfratto pianificato, per metterla così in maniera molto cruda, sfratto pianificato dall'alto, di intere comunità, si introduce allo stesso tempo un piano per, beh, non direi un piano, ma per adempiere al bisogno della casa, che viene sempre a mancare e viene sempre più criminalizzato, il semplice bisogno, perché uno reagisce, ovviamente se non ha, se subisce uno sfratto deve trovarsi qualche modo per sopravvivere, anche questo modo per sopravvivere viene criminalizzato. E durante questo periodo, infatti, quando crescono sempre di più le prigioni, però attenzione, quello che Frank aggiunge è molto interessante perché questa nuova industria di rifugi per i senza tetto è un altro tipo di prigione, un tipo di prigione, un tipo di carcere in cui la persona non ha quasi nessun diritto, ha un coprifuoco giornaliero, vive in un ambiente veramente di scempio, magari delle grandi palestre in cui ci sono tutti questi lettini, uno vicino all'altro, in cui c'è un costante rischio di essere violentate o violentati. Si vive veramente una condizione di controllo e allo stesso tempo di caos. Cioè, caos che è creato dalle condizioni stesse in cui molti senzatetto vengono sottoposti. E controllo perché queste autorità controllano proprio la vita quotidiana di queste persone come se fossero in carcere. E allora intere comunità che erano in lotta vengono minate dalle proprie fondamenta. In pratica, tramite lo sfollamento, la creazione di decine di migliaia di senzatetto e in pratica la carcerazione informale di questi senzatetto in questi luoghi di cosiddetta accoglienza o di rifugio per i senzatetto. Incapable of taking care of themselves and so forth and so on, rather than victims of a state-sponsored repression, which is what homelessness is. So the context now is that we are looking to and have embarked on campaigns of Per squatting passare in in breve these vacant alla properties, which are less differenza della subject to situazione scenario nel that presente, walk up variety or more housing, si può single constatare two-family houses in the outskirts, un so cambiamento on, and notevole which per are quanto already riguarda advanced. la lotta Remains to be per seen la casa in terms e of the ability of the bank to come la deliver the mette kind of Frank law di enforcement response autodifesa della comunità contro city was able to deliver in the 80s or Contro gli 90s. sfratti che minano Thinking that le whether or not the fondamenta banks may in fact in sé present themselves as di intere entire, comunità. which will allow Allora, us il contesto to adesso è diverso, nel continue to senso move che more effectively in these vacant spaces now. So that's i the context palazzi of squatting now. Thank God, sono ormai nelle mani dei privati, covert into the principalmente, police, o addirittura not as veramente più che private privati o in palazzinari, size, si tratta anche di quiet, banche. Quindi geographically circumscribed in a certain way, Occupare towards tourist appartamenti, grounds, occupare streets. palazzi di questo That periodo è context diventato molto più continues to blur difficile. with the emergence of the C'è occupy stato movement anche and some new forces in una New York. militarizzazione, vabbè, sempre un corpo militare, comunque la Which polizia bisogna coalesce and capire create che è una kind of forza discourse militarizzata around this whole comunque, question, però because all across a Europe differenza degli anni there 80, are is mass adesso vacancy. US l'addestramento needs della more polizia in avviene designated quasi spaces in that are pratica shrinking. tramite gli People are stessi familiar with schemi cities like di Detroit and so forth, which suggest di un that there are corpo some 4 militare million e employees in all around più the country. So adesso begs the question, adoperano armi when semiautomatiche, automatiche che mass si squatting movements adoperano will emerge contesti and will hopefully come this summer, we'll see much more addestramento organizations militare e take di back the azione land. militare This is one of in New York campi began in Miami di around vera e the New York propria City area. Now we guerra, have cioè chapters in a così number of cities around the vista in country, maniera where squatters groups in Portland, dal punto di vista Oregon, San Francisco, in Philadelphia, convenzionale, and cioè che there's an viene adesso applicata in emerging pratica in queste coalescing comunità, of squatters and specialmente di virtuous colore miners, o quartieri poveri, farmer folks, with come se older fossero, e lo people who sono in have pratica been sempre stato, forced pratica into homes who are moving back into delle forze di where they're not occupazione, quite però adesso squatters molto in più that sense, militarizzata. but they're reacquiring Un'altra their cosa brothers che è like them. cambiata So the discourse che rende le here cose molto più is very difficili much adesso per more quanto riguarda mainstream l'organizzazione and so on. e la So lotta in the emergence generale now negli is Stati Uniti è more che dal 2001 ci sono sempre public più casi di about infiltrazione the anche requirements in of housing and so on. This is one of the organizzazioni questions pacifiste, cioè of sta housing, diventando, cioè si è trying to get dilagata security and so forth, l'infiltrazione, tied in mentre with the economic point of view, prima supply point of view, si the desire concentrava, to cioè le stay autorità si to keep the city concentravano stabilized. Disenfranchised from the community, sulla from voting. distruzione They don't di have an address, organizzazioni disenfranchised. rivoluzionarie. In Adesso order to invece prevent qualsiasi discrimination, organizzazione criminalization, and che protesta anche violating of la più issues minima like cosa, Pentagon ormai domination si può projects anche around aspettare the di essere globe, infiltrata. Tutto questo ecological disaster on the planet. rende molto, molto difficile organizzare una qualsiasi cosa perché c'è sempre più diffidenza tra la gente, sempre più paura, e poi c'è stato anche l'inasprimento parallelo delle leggi che ti possono sbattere in carcere dagli anni 80 in poi, oltre il fatto che quando la gente non riesce neanche ad avere fiducia nell'altro, nell'altra, diventa veramente difficile organizzarsi. C'è stato anche ovviamente la privatizzazione di tantissimi servizi, non soltanto di palazzi che una volta erano pubblici, cioè in gestione pubblica o statale, e quindi adesso diventa in pratica il caso di proprietà privata, qualunque uno occupa uno spazio come per esempio il parco Zuccotti, gestito in privato. Quindi ci sono delle leggi molto più aspre per la difesa della proprietà privata e la polizia ovviamente può intervenire con ancora più spietatezza che in altri contesti. Poi c'è sempre di più un carrierismo sempre più sfrenato tra le ONG varie che si prendono cura, tra virgolette, dei casi di indigenza, di ex inquilini, come preferisce metterla Frank invece di senza tetto, e molto lucro che si è via via costruito su questi ex inquilini, nel senso che le strutture che sono state introdotte, specialmente dal 79 in poi, i ricoveri vari, eccetera, si sono non soltanto diffuse a macchia d'olio un po' dovunque, negli Stati Uniti, dove ci sono situazioni che sono state create proprio quasi apposta tramite gli sfratti, perché erano intere comunità sfrattate, e quindi ci sono tante strutture che sono state introdotte dapprima magari piuttosto tramite lo Stato, ma sempre di più tramite il privato, cioè adesso interi palazzi possono essere gestiti da un palazzinaro per tra virgolette accogliere delle persone senza casa soltanto per la notte. E quindi la stessa regimentazione di un qualsiasi ricovero per senza tetto, ma la situazione in pratica è che in un piccolo appartamento magari ci si introduce 4, 5, 6 persone con brande, in pratica, siamo anche a quello stato lì, o letti a castello, qualcosa del genere, e sempre di più sotto sorveglianza, con telecamere ovunque, cioè una totale assenza di stare in privato, e questo include sempre di più le donne con figli e figli, cioè adesso si trovano sempre più in questa situazione di disagio, in intera famiglia ovviamente, ma anche bimbe e bimbi, oltre le loro madri. E in maggioranza dei casi si tratta di madri che da sole devono affrontare questa situazione di terribile indigenza, sorveglianza continua. E poi sono lasciati per strada una volta che hanno pernottato e quindi non hanno nessun accesso a nessun servizio per dalle 7 del mattino fino alle 21, e quindi si può anche immaginare qual è stato di disastro si trova questa gente. Però oltre a quello si sono inaspriti anche i metodi di sorveglianza, con addirittura carte d'identità, magari obblighi a cure psichiatriche con tanto di farmaci, per dimostrare che hanno bisogno di avere un posto dove pernottare. si sta arrivando veramente al parossismo. Quindi, come dice Frank, si tratta di in pratica un carcere di minima sicurezza, forse a bassa intensità, ma tuttavia è molto simile la situazione per centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti. C'è uno spiraglio, ci sono lotte che sono attualmente continuamente in corso. Specialmente con la massa di pignoramenti dal 2008 in poi, che adesso coinvolge sempre più la fascia basso-media e media della società statunitense. Quindi c'è l'opportunità di un'apertura maggiore per legittimare la lotta per la casa. Però purtroppo ci sono tantissime barriere, tantissima repressione. E quindi è molto difficile. Ci sono casi eccezionali come per esempio gli squat che adesso sono diventati legali. La lotta è durata dall'85 fino al 2002 nella Lower East Side di Manhattan, per esempio. Ce ne sono 11 di squat che sono ormai legalizzati, però sono arrivati a quello per situazioni legali pregresse che adesso non esistono e quindi non si potrebbe svolgere lo stesso tipo di lotta. Non con lo stesso esito, perché adesso le case, i palazzi sono nelle mani delle banche, degli speculatori, eccetera. È molto più difficile adesso riuscire tramite i tribunali di ottenere un diritto a rimanere in uno spazio occupato, e già lo era prima, ma adesso ancora di più. Quindi è sempre più criminalizzato l'atto di occupare uno spazio, e ovviamente anche per coloro che non hanno nessuna casa o che hanno subito uno sfratto, diventano in pratica criminali in questo sistema, e così si incrementa anche il tasso di carcerazione, che intanto era già cominciato negli anni Ottanta, ma questa criminalizzazione delle persone senza casa ha aumentato ancora di più la vulnerabilità di questa gente a essere soggetti alla carcerazione, oppure a un altro tipo, un'altra forma di carcerazione, cioè tramite i ricoveri per i senza tetto. Però ci sono occasioni, ci sono aperture, per esempio. A New York si stanno formando organizzazioni tipo Organizing for Occupation, O4O, che difendono le persone dagli sfratti, oppure agevolano persone che sono in ricoveri per senza tetto a trovare un'altra sistemazione, magari in una casa abbandonata in una parte della città. C'è il Take Back the Land, Riprendiamoci la Terra, che è cominciato a Miami per gli stessi motivi che a New York, e hanno fatto tanti passi avanti nel riuscire a sistemare centinaia di persone in nuove abitazioni, però è sempre tutto molto in situazione precaria, con la possibilità in qualsiasi momento di irruzione della polizia, di arresti, eccetera. Quindi permane una situazione di alta repressione che è invisibile, resa invisibile tramite la stampa, i mezzi di comunicazione vari, però la lotta continua, più magari nello sfondo per chi magari non ha il privilegio di non essere in uno stato di tale privazione oppure non è connesso in questi movimenti, e quindi anche se la situazione è cambiata notevolmente, la lotta per la casa continua a esserci come c'erano decenni anni fa, decenni di anni fa, però in maniera diversa adesso perché il contesto è notevolmente cambiato. Con questo concludo. E ringrazio tantissimo l'intervento di Frank Morales, e questo di nuovo è TK, e vi mando un forte abbraccio e saluto, alla prossima.